o no? E invece quando era qua? Ma appunto chiama appunto, scusami sai. Ma che? Quelli invece facevano le stupe i conti. Io non ho molto meglio. Ah, detto sì, è Sanada. Sì, adesso abbiamo fatto fare le prove, il punto. Mamma mia, quanto mi viene ridere. Però prima quando hai perduto per me non ti veniva da ridere. Ti sei acceso perché eri senza soldi. Sei camerieri, impresari, musicisti. Cosa che è? Talvolta personalmente influenti. E talvolta dei frequenti. 29-6. Sei cotto da quella Paola che ti viene che trovi un po'. No, dovete essere una passionata. Esatto, l'altro tre piatti. Si chiamava Alfred Aid. Ah, sì, sì. Mi scuglio, se non ti piace, mai che possedesse accattato un altro omicida. Ero accanto a lui, che teneva la testa tenevamente appoggiata sulla nostra spalla. Inutile fare la commedia, l'ho vista sul treno con il suo amico Kyle. Kyle, è così che si chiama? Basta con questa commedia, vi ho detto. Gattuso. Scusami, è uscita assieme a Marvel. Che cosa è? Sarà piazza. Non è molto difficile indovinarlo. Perché non ti dite Marvel? Ehi! Sapete se il signor Marvel abita da queste parti? Hai capito il gioco? Sì, io sono arrivato qui facendo l'autostop. No, ci sarà un paio di che non la capite, vi darò un passo. Non l'ho capito. Non l'ho capito, va bene, va bene, va bene. Sono detto se l'avevi capito il gioco. Ce l'avevi dire. No, non capisco che vuoi dire. Non l'ho capito. Va bene, va bene. Va bene. Se Pio è piano dietro. Nel XVI secolo, durante l'invasione, quando sono rimasto offeso che siate di corsa un estraneo per quella faccenda di. State pure tranquillo. Capirai, sta avvenendo a terra, vuoi prendersi. A me pure prima stava. Il gioco che dovevi capire, che il quarto re stava in mano a me. Due l'ha preso lui. Uno lo buttava, prendevo, perché tu non le devi guardare. Ma finite, non so, e allora aspetti. No, Gio, tocca a me. Sì, c'è la carta solo, mi pare lui. Ecco. Tu già te li riguardi tutte le carte, poi le vai pure a guardare. Sì. Basta una partita normale. Sì. Capirai, quando fai. Scusate, devo lasciarvi. Ma non ripeto. Ma perché non siamo uscite fuori? No. A 32, no. A 32. Ho visto per 8 partite. Anche a 39. È rimasto. E allora? Se uno gli vengono le carte, sta a casa. L'ho accompagnata sino a San Sepolcro. Non ha detto dove andare. Quarte. Mi pare di aver sentito che voleva fare una visita prima di recarsi al lavoro. Oh, ecco, guarda qua. Che mosso, porca di prima devo chiedere l'altro che hai fatto manco una. È la prima. E non sa più giocare. Sapete giocare? Ma come riesci a giocare tanto bene? Hai giocato bene, hai giocato di 10, hai giocato bene. Ma dopo faccio vedere. Vabbè, ma che ti importa? Hai superato il 10, non fanno le scope. Già. Ma lo sai che le scope la rovina? Sì. Poi te rendi conto. Dopo te rendi conto. Va bene. Quando vedrai le carte te renderai conto. Americani sempre con le cifre grosse così sono. Ecco sì. C'è le scarpe con le cifre, lo sai? Quindi la viene un prego. Cavallo. Altamente specializzata in protezione di marmotte e molte.